Debora, preparati che appena finisce il lockdown, che riaprono i ristoranti, sei prenotata, per una bella cassola io e te in quel ristorante che ti ho già detto precedentemente. Guarda, ti porto anche la campanella, così ogni mezz'ora te la suono, e tu mi dici le notizie di borsa. Wow, che libidine. Ciao a tutti. Di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Debora Rosciani e Mauro Meazza. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Mauro, buongiorno. Tutto bene? Buongiorno Debora, tutto bene. Come mai questa scelta così curiosa da parte del nostro ottimo e onnipresente Marco Lombardo? Guarda, in realtà le disponibilità musicali sarebbero state diverse, ne abbiamo scelta una così, un po' originale, inedita, non abbiamo voluto utilizzare altre così composizioni, ci piaceva questa perché volevamo parlare oggi della cosiddetta controrotazione dei mercati finanziari, mercati che quindi girano, girano e girano come se fossero anche delle bambole in mano ai gestori professionali e agli investitori professionali. E infatti oggi, visto che è giovedì e c'è Investire informati, caro mio Mauro, parleremo proprio di questa rotazione settoriale molto importante che è iniziata da lunedì, da quando la Pfizer ha annunciato di essere pronta con il vaccino che è stato testato sul appunto campione individuato dalla grande casa farmaceutica e ha un'efficacia almeno sul 90% delle persone su cui è stato testato, e questo è bastato a far prendere il volo ai mercati. Però ci chiediamo stamattina, ieri e oggi si sta prendendo un po' una pausa, questa rotazione settoriale ha anche delle fondamenta, e poi questo rally dei mercati di questi ultimissimi giorni è consistente, destinato a durare? Stamattina ci sono preoccupazioni che sono state pronunciate dalla Banca Centrale Europea, hai sentito, ha cominciato così il giornale radio condotto da Katia Caramelli, e quindi cercheremo di capire se questo rally degli ultimissimi giorni ha sostanza, è destinato appunto a proseguire, e quindi questo è un po' il tema che affronteremo oggi ad Investire Informati. Allora io dico agli ascoltatori, se anche voi come me siete smarriti dalle rotazioni e dalle controrotazioni che ancora un pochino mi sfuggono nonostante l'aiuto di Patti Pravo e lo sguardo rassicurante dall'altra parte del vetro di Pietro Lacorte, io vi dico, noi abbiamo un numero verde come al solito 800240024, poi abbiamo un numero per i vostri sms e whatsapp che è 349-238-6666. Io intanto prendo appunti, però prendiamo volentieri in considerazione anche i vostri messaggi, le vostre richieste per quanto riguarda appunto questa giornata, questo giovedì, come sempre dedicato a Investire Informati. Senti, ma lo sai che ieri era il single day? No, cioè so che tu nel senso interessato alla materia essendo impegnato naturalmente, però dal punto di vista economico, come al solito, queste ricorrenze sono molto prelibate, succolente per qualcuno. Guarda, i latini dicevano che l'arte è lunga e la vita è breve, e tu questa mattina con queste due cose me lo hai dimostrato. Rotazioni, controrotazioni, giornata del single. Che cos'è la giornata del single? Adesso non faccio tempo a prendere appunti io. Dimmi. Ma guarda, è una convenzione che ha grande successo soprattutto in Asia, dove ci si dedica per un'intera giornata allo shopping online. E infatti ieri ci sono stati degli incassi record per la piattaforma di e-commerce Alibaba, e quindi dopo Amazon naturalmente noi facciamo pubblicità anche a questa che ne ha un grande bisogno. E tu pensa che ieri hanno totalizzato un volume d'affari per 74 miliardi di dollari, cifre mai viste per una sola giornata naturalmente. E questa è una cosa interessante perché invece contestualmente questo gruppo, appunto il più grande sito di e-commerce al mondo, in realtà in borsa sta scendendo da diverse giornate, per cui non è che la borsa dica oh bene, con tutto questo business che fai io ti premio con le quotazioni. E no, perché Alibaba è preoccupata per le nuove regole restrittive che sono imposte dal governo cinese alle piattaforme piattaforme di pagamento, tant'è vero che loro avrebbero dovuto quotare in borsa anche la loro società che si occupa esclusivamente appunto di pagamenti online, Ant, proprio come Formica, e hanno dovuto ritirare, fare retromarcia su questa quotazione proprio perché il governo cinese si è messo un po' di traverso. Quindi insomma tante cose interessanti anche da commentare questa mattina per quello che riguarda i mercati finanziari, perché sappiamo che queste piattaforme con la pandemia sono andate molto bene e adesso in Cina invece hanno un piccolo stop. So che hanno tra l'altro 800 milioni di utenti, quindi abbiamo fatto bene anche noi a dargli un pochino di popolarità, perché mi pare che fatichino, esatto, insomma, a imporsi sul mercato questi signori di Alibaba. Senti, facciamo un rapido giornale radio del risparmio, così poi io apro il mio taccuino e comincio a prendere appunti per quanto riguarda sia Investire Informati, sia, posso anticiparlo mi pare, anche come sta andando il BTP Futura, perché lo diremo in diretta, siamo al penultimo giorno, se non sbaglio, di collocamento possibile di questo nuovo prodotto, sempre destinato a sostenere i mezzi necessari per le misure antipandemia, di sostegno appunto alle varie categorie. Allora, tutto ciò premesso, giornale radio del risparmio. Ascolto ogni mattina, due di denari aiutano a gestire i miei tesori. Ci segnalano, cara Debora, che a settembre è stato toccato un nuovo record per quanto riguarda il patrimonio gestito dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Insomma, quelli che una volta chiamavamo i promotori, mi pare, che adesso hanno questo termine un po' più preciso dovuto all'attuazione della riforma e al registro. Allora, a fine settembre, segnala Assoreti, la valorizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dagli intermediari associati tramite appunto i consulenti ha raggiunto un nuovo massimo storico, 630,1 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto al dato di giugno. La crescita coinvolge principalmente i prodotti del risparmio gestito, più contenuto invece l'incremento della parte del risparmio amministrato. Sarà un altro tema che sottoporremo al nostro esperto di quest'oggi, immagino. Allora, invece volevo raccontarti che c'è una novità per quello che riguarda la vicenda di Dentix, te lo ricorderai, questa catena di ambulatori dentistici che qualcuno definisce low cost, ma che a causa del lockdown, siccome ha dovuto chiudere, praticamente sono sostanzialmente falliti. Allora, qual è la novità delle ultime giornate? Che l'antitrust, l'autorità garante della concorrenza, proprio ieri ha avviato un procedimento che avrebbe l'obiettivo di verificare se sussistono pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole, comparativa, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione nel divieto di discriminazione, clausole vessatorie, insomma un bel fardello che tanto come si aggiunge a tutto il resto che pesa sulle spalle di questa società. Praticamente però le novità riguarderebbero le società di finanziamento Cofidis, Fiditalia e Deutsche Bank, che avrebbero erogato prestiti a tutte le persone che ricorrevano alle cure appunto delle cliniche Dentix, chiaramente utilizzando delle forme di prestito, e quindi bisognerebbe far chiarezza su come questi prestiti sono stati appunto erogati, anche perché queste società avrebbero continuato a riscuotere le rate dei finanziamenti e non avrebbero proceduto, sostiene l'antitrust, alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato nel momento in cui queste cliniche non hanno più erogato i loro servizi. Di tutto questo ci informa questa mattina un'associazione dei consumatori, anzi un paio, che stanno vigilando molto attentamente, sono Codici e Feder Consumatori, che ci ricordano come siano state centinaia le segnalazioni di clienti che, a seguito dell'improvvisa chiusura delle cliniche odontoiatriche, non hanno potuto iniziare per niente o non hanno potuto completare gli interventi programmati, e però molti si erano indebitati con delle forme di prestito e questi prestiti li devono però restituire, e quindi è una situazione sempre più complessa. Vedremo che cosa ci dirà l'antitrust. Mauro. In chiusura del nostro giornale radio del risparmio, una anticipazione, un consiglio per gli acquisti, mi viene da dire, anzi un doppio consiglio per gli acquisti, perché sul Sole 24 Ore presentiamo domani e dopodomani pagine speciali dedicate ai decreti legge ristori, perché come sapete sono diventati due, forse diventeranno addirittura tre. Domani e sabato pagine speciali, quello l'uscita di domani sempre con il quotidiano, con il Sole 24 Ore in edicola, sarà dedicata alle misure fiscali dei decreti legge ristori, invece l'uscita di sabato sarà dedicata agli aiuti alle imprese. Era il mio consiglio per gli acquisti, adesso invece c'è il nostro sportello reclami, cioè dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno ragazzi, Vanna da Roma. Una curiosità, ma se io voglio fare un weekend nella regione arancione, posso andarci? Grazie. Grande classico delle restrizioni, Mauro. Allora, da quello che ci risulta, per le zone non rosse, gli spostamenti sarebbero, come dire, il governo raccomanda di evitarli, ma non li proibisce, se non mi ricordo male, da quello che indicano gli ultimi DPCM su questo tema. Non ci si può muovere né sul territorio appunto regionale, né fra un comune ad un altro nelle regioni rosse. Per quello che riguarda le altre, invece, gli spostamenti è raccomandabile che non vengano effettuati. Mi ricordo male, ma bisognerebbe... Ti ricordi correttamente, ma vorrei precisare che questa è la disposizione vigente al giorno 12 novembre alle ore 11:20:11, perché non so se nel frattempo sta succedendo qualcos'altro, però è così, e fai bene a ricordare che comunque in tutto il territorio il governo e il DPCM, insomma poi non è il governo ma proprio tutte le misure per contrastare la pandemia, prevedono di limitare al massimo gli spostamenti e naturalmente gli assembramenti, utilizzare sempre la mascherina. Questo giusto per ricordarlo. Poi volevo dire all'ascoltatrice, dipende poi anche lei da dove viene, perché se si muove da una regione rossa per andare in un arancione dovrà avere un valido, validissimo, fortissimo motivo. Ad esempio deve rientrare al suo domicilio. Partiamo ecco, la parola con... weekend mi suggerisce qualche intenzione, diciamo, non di carattere di urgenza, non lo sappiamo e non vogliamo naturalmente giudicare né commentare le necessità di questa ascoltatrice, ma parlando di weekend non vorrei che si volesse spostare per andare magari in una seconda casa, come avrebbe tutto il diritto di poter fare, ma in questo frangente i nostri diritti sono un pochino ridimensionati. Guarda, gli ascoltatori ci segnalano che neanche nella zona arancione ti puoi muovere dal comune, quindi abbiamo dato una indicazione non precisa, allora la correggiamo. Anche nella zona arancione, però lei non... Sì, esatto, lei non diceva da dove volesse arrivare. Io ho immaginato che volesse partire da una gialla e potrebbe, e quindi, essere che allora si può muovere, quindi comunque esatto, limitate gli spostamenti. Sai cosa facciamo? Convochiamo cambiamo argomento. No, aspettiamo che la cosa si plachi, perché sai che nel fine settimana potrebbero intervenire ulteriori determinazioni, e allora magari nella prossima settimana mettiamo in cantiere una puntata dedicata al riepilogo. Volentieri. Sia di questo nuovo tricolore al quale ci stiamo abituando faticosamente. Adesso andrei invece... A proposito di tricolore, esatto. Sì, esatto. Era proprio un assist. Prego, Deborah. Sì, vabbè, stamattina veramente la fantasia si spreca con le scelte musicali. Ritorno al futuro, ma andiamo invece al presente con una veloce chiacchierata con Pietro Poletto, responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, al quale chiediamo immediatamente un punto della situazione sul collocamento del BTP Futura, seconda edizione dopo la prima emissione dello scorso luglio, una nuova emissione del titolo di Stato riservato ai risparmiatori individuali, e anche in questo caso un titolo di Stato la cui raccolta sarà destinata, come diceva prima Mauro, a rastrellare quante più risorse possibili per metterle a disposizione dell'emergenza economica che sta vivendo il nostro paese. Un titolo dalle caratteristiche molto particolari, ne abbiamo parlato una settimana fa con Davide Iacovoni, capo del debito pubblico del Tesoro italiano, del Ministero dell'Economia. Pietro Poletto, buongiorno. Ieri sera 4,9 miliardi, abbiamo da aggiungere qualcosa stamattina? Sì, sicuramente, buongiorno a tutti voi, prosegue anche oggi, proseguirà fino a domani alle ore 13 il collocamento del BTP Futura seconda edizione. Oggi abbiamo raccolto 155 milioni a pochi secondi fa, per cui oggi si potrà ancora sottoscrivere questo titolo fino alle 17:30 e poi domani fino alle ore 13. Ricordiamo che questo è il titolo particolare che è stato creato dal Ministero del Tesoro proprio dedicato agli investitori privati, cosiddetti retail, che è una struttura particolare nel senso che è un titolo BTP a tasso fisso a cedole crescenti, che sono già state comunicate, ha una durata di 8 anni, per cui è leggermente più corto rispetto alla precedente edizione che era di 10, con delle cedole crescenti che sono 0,35 per i primi 3 anni, 0,60 per i successivi 3 e 1% per i 2 ultimi. Ricordiamo inoltre che anche questo BTP, come per BTP Italia, famoso a tutti gli investitori, ha il cosiddetto premio fedeltà. Premio fedeltà che consente a tutti i sottoscrittori che hanno sottoscritto il titolo durante questa fase di collocamento e ritenuto fino alla scadenza di ricevere il cosiddetto premio fedeltà, che sarà tra un minimo del 1% e un massimo del 3%, dato dalla media nella durata del titolo dell'andamento del PIL nominale durato questo periodo del titolo. Questo sostanzialmente, ricordiamo inoltre che non ci sono commissioni di collocamento per chi lo sottoscrive in questa fase, che il titolo è collocato in esclusiva sul mercato Mofi Borsa Italiana e che poi durante la vita del titolo è normalmente negoziabile come qualsiasi altro titolo sul mercato di borsa. Quindi... Senta Poletto, l'altra emissione, no Mauro, stavo avendo una curiosità, perché l'altra emissione, te lo ricorderai, aveva raccolto circa 6 miliardi con i 155 milioni stamattina, forse siamo quasi a 5 per quello che riguarda questa seconda operazione. L'importo medio investito, avete anche questo dato Poletto? L'altra volta diciamo era di circa 30 mila euro. Diciamo è un po' più alto in questa seconda edizione, per cui secondo me arriveremo largo circa all'importo della prima edizione. Ovviamente era difficile fare delle previsioni perché al di là della destinazione di proventi che era chiara anche nella prima edizione, però siamo in un momento particolarmente delicato e evidentemente è difficile anche prevedere quale sia un po' l'emotività dell'investitore. Devo dire che la risposta è stata comunque positiva, perché comunque poter raggiungere o avvicinarsi molto all'importo della prima edizione è sicuramente un risultato assolutamente rimarchevole. Teniamo anche conto che c'era stata anche il 27 di ottobre il rimborso di un precedente vecchio BTP Italia per poco più di 6 miliardi e mezzo, mi sembra 7 miliardi, per cui liquidità investibile ce n'era. E poi, come avete sicuramente rimarcato nei giorni scorsi e anche nei recenti dati di Banca d'Italia, c'è un sostanziale incremento della liquidità da parte degli investitori sui conti correnti, no? Che è parcheggiata lì. Ricordiamo che evidentemente un approccio prudenziale ha probabilmente spinto a mantenere la liquidità sui conti correnti, però dal punto di vista dell'investimento e della remunerazione evidentemente un eccessivo parcheggio di liquidità sui conti non è in questa situazione di tasso di interesse particolarmente indicato, per cui all'interno di una allocazione di diversificazione dei portafogli ci può stare una quota di cosiddetto cash, però è giusto anche pensare ad investimenti che possono essere più remunerativi in base al profilo di rischio di ogni investitore. Intanto vorrei ricordare due cose. Voi avete parlato del taglio medio dell'investimento, io ricordo quello minimo che è 1000 euro, e poi un'altra cosa che mi piace sempre ricordare, lo sai Deborah, la tassazione dei titoli di Stato, certo. Non solo dei titoli di Stato italiani, tassazione dei titoli di Stato è più bassa rispetto a quella, alla tassazione standard applicata sui redditi di capitale. La standard è al 26%, sui titoli di Stato si paga il 12,5%, quindi è decisamente più bassa. Questa è una caratteristica, ripeto, per i titoli di Stato, non solo quelli italiani. Prego Deborah. Bene, direi di salutare Pietro Poletto, ringraziarlo per essere stato con noi e partire con la rubrica del giovedì. Andiamo. Investire informati. E allora Mauro, ci abbiamo un po' giocato all'inizio, ma è un tema da tenere invece con grande attenzione sotto osservazione, perché è iniziata la rotazione settoriale, ma più che un'affermazione mettiamoci anche un po' un punto interrogativo. Intanto cos'è successo? Che da lunedì scorso, da quando La casa farmaceutica Pfizer ha annunciato che è efficace nel 90% dei casi il suo vaccino anti-Covid e che sarà disponibile, autorizzazioni permettendo, entro la fine dell'anno. Il mercato azionario ha spiccato il volo. Però come lo ha fatto? Ha fatto delle scelte settoriali molto precise e molto particolari. C'è chi ha detto, lo ha scritto anche il Sole 24 Ore, tu l'avrai letto, il vaccino ha messo KO la lockdown economy, che era quella fatta sostanzialmente di tecnologia, perché ricorderai appunto come è volato il Nasdaq, l'indice della tecnologia americano. Ma adesso sta cambiando qualcosa? Io direi che abbiamo veramente una marea di domande da fare quest'oggi ad Alessandro Tentori, capo degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers, al quale chiaramente chiederemo anche che prospettive si sono aperte con la nuova, anche questa da mettere tra virgolette, amministrazione americana, perché il povero Joe Biden ancora non si può sedere con serenità alla Casa Bianca. Tentori, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno. È un periodo abbastanza, esatto, come dire, frizzante. Abbiamo una trentina di secondi, Tentori. Questa controrotazione, lei ce lo dica, insomma, questo spostamento tra i titoli della tecnologia a tornare invece sui titoli, quelli un po' dell'economia più tradizionale, c'è stato o non c'è stato? La borsa si è subito spaventata? Ma è stato un tema di poche sedute. Devo dire che c'è un tema tattico, chiaramente la sovravalutazione di tutto quello che è stato il growth, cioè la tecnologia. La tecnologia, esatto. Potrebbe subire una rotazione però tattica, limitata solamente al Covid. C'è poi tutto il trend di lunga portata, chiaramente il mondo va verso la digitalizzazione, è un trend inesorabile, quindi comunque questo si rifletterà nelle valutazioni. Benissimo, allora sono le 11:30 minuti, Deborah, è proprio il momento delle borse. Vedo che sei sempre preparata e questo mi dà veramente soddisfazione. Mi piace tanto dirlo, il codice Ateco. Bravissimo. Due di denari. Bisogna precisare che il titolo Futura ogni anno deve pagare, come tutti gli altri, lo 0,2% di commissioni per deposito titoli, per cui parte dell'interesse vanno a farsi benedire. Forse è il caso di dirlo però, Mauro, posso dirlo che avevamo affrontato proprio questo aspetto anche con Davide Iacovoni del debito pubblico la settimana scorsa e lui aveva oggettivamente effettivamente confortato anche le preoccupazioni degli ascoltatori su questi argomenti. Oggettivamente è stato detto che se vai a vedere bisogna fare appunto anche un'attenta ponderazione dei costi che la detenzione di strumenti di investimento, tutti complessivamente appunto tutti gli oneri che dobbiamo sostenere per questo, quindi fa parte di tutto un pacchetto titoli che ovviamente dobbiamo remunerare alla banca presso la quale teniamo appunto i nostri risparmi. Però si fanno dei conti, naturalmente, non è che poi tutto il tuo risparmio devi metterlo in questo unico titolo e il rendimento fartelo erodere da quello che costa, bisogna fare delle scelte anche di diversificazione. Esatto, però appunto la nostra puntata, la puntata vostra, anzi, perché io ero momentaneamente assente dai microfoni, la puntata è ancora disponibile con tutti i dettagli. Se andate sul sito radio24.it trovate nella sezione programmi Due di denari e c'è questa puntata in cui Davide Iacovoni ha spiegato, appunto illustrando tutte le caratteristiche del BTP Futura, che è uno dei tantissimi strumenti di investimento disponibile. Ma infatti con Alessandro Tentori, che abbiamo il piacere di ospitare qui a Investire Informati, che è il capo di investimenti per l'Italia di AXA Investment Manager, vorrei proprio introdurre questo tema. Tentori, ci sono sempre più titoli come il BTP Futura, ma anche di altra natura, di altra provenienza, che sono targati, che sono dedicati per il sostegno alla pandemia, per il green, per l'ambiente, per il sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Per l'occupazione, con Per l'occupazione, brava. Infatti stavo pensando quali altri avevamo letto di recente. Tentori, cosa pensate di questa nouvelle vague del risparmio, dei prodotti che sono a disposizione dei risparmiatori? Secondo me era una nouvelle vague qualche anno fa, quando furono fatte le prime emissioni ESG, quindi dedicate al sociale, al verde, all'ambiente e quant'altro. Oggi si può parlare di un trend consolidato dove anche i gestori fanno la loro parte, quindi una fetta quasi oltre il 90% dei portafogli gestiti dai gestori globali ormai si deve allineare con una certa etichetta, quindi queste etichette ambientali, sociali, eccetera. È importante perché diciamo solleva il tema della governance, quindi cosa fanno effettivamente gli emittenti di obbligazioni una volta che ricevono il funding da parte degli investitori, e quindi si devono attenere a certe regole, devono confermare poi alla fine dei bilanci che i soldi raccolti con queste emissioni hanno un utilizzo ben specifico. Deborah. Torniamo sul mercato azionario e andiamo a commentare con qualche grado di dettaglio in più le vicende degli ultimi giorni, soprattutto indicando però una prospettiva, perché noi raccomandiamo sempre ai nostri ascoltatori che non devono ossessionarsi del trend quotidiano, ma chiaramente gestire i propri risparmi guardando anche alle logiche di lungo termine. Sicuramente con le elezioni americane qualche tema di lungo termine lo abbiamo già individuato, Alessandro Tentori. È probabile che questa nuova amministrazione americana, non appena potrà insediarsi, perché è ostacolato Biden in ogni modo, appunto, proverà a prendere in mano intanto le redini dell'economia, perché anche l'economia americana sta avendo fortissime difficoltà a causa della pandemia. Abbiamo avuto recentemente il dato sul PIL del terzo trimestre che ci aveva raccontato di un vigoroso rimbalzo, ma già qualche segnale di scricchiolio per il prossimo trimestre si sta manifestando, perché ovviamente la pandemia morde, pur nelle promesse del colosso farmaceutico Pfizer, appunto, di aver trovato quantomeno una soluzione per la prevenzione, quindi il vaccino. Che cosa è successo con queste elezioni americane? Come si è un po' scombinato il panorama finanziario secondo il punto di osservazione di un investitore, appunto, professionale? Tentori. Sì, devo dire che intanto al presidente che verrà viene consegnata un'America estremamente divisa, un paese proprio con una divisione netta, lo si vede nel numero dei voti, lo si vede nella distribuzione dei seggi e quant'altro. Devo anche dire che però non ci saranno, a detta degli investitori, questo riflette un po' le valutazioni sui mercati, non ci saranno grossi scossoni, grossi cambiamenti di rotta per quanto riguarda la politica economica. In particolare in campagna elettorale Joe Biden ventilava l'ipotesi di una redistribuzione del reddito, andando a tassare quell'1% dei redditi, chiamiamoli milionari, negli Stati Uniti, quindi tentare di trovare le risorse per gli investimenti sulla politica interna, in particolare sulla salute, sulle politiche sociali. Il problema è che dovrà confrontarsi con un Senato che molto probabilmente sarà diviso. Ora aspettiamo il ballottaggio in Georgia, però molto probabilmente il Senato, se non sarà a guida repubblicana, comunque sarà un Senato di nuovo spaccato in due, quindi molto probabilmente ci sarà una discussione che dovrà trovare un compromesso bipartisan, e questo ovviamente è positivo per i mercati, perché prevede che le politiche in atto adesso molto probabilmente saranno anche le politiche per i prossimi quattro anni. Sul lato delle politiche estere invece ci potrebbero essere delle differenze, nel senso che i toni per la discussione, in particolare con la Cina, potrebbero cambiare. Questo forse è diciamo, l'aspetto più interessante da analizzare quando si parla di presidenza statunitense. Perché credo, Tentori, che qui ci sia sia il discorso del rapporto con il commercio internazionale, quindi la Cina, ma anche l'Europa, insomma, del presidente eletto, come si dice, perché molti ascoltatori poi intervengono spiegate, ricordate che ancora Biden non può fare nulla perché siamo in piena transizione, non solo, siamo anche nel mezzo di una disputa tra avvocati a livello altissimo, e poi c'è il tema del climate change, del verde, dell'ambiente, insomma. Trump non aveva una posizione assolutamente di disponibilità su questi temi, Biden sembra essere invece molto più sensibile, quindi un altro tema che potrebbe orientare di nuovo anche quei titoli targati di cui parlavamo in precedenza. Sì, penso che intanto, per tornare alla politica estera, il dialogo con i partner storici statunitensi, quindi l'Europa e la Gran Bretagna, sarà più serrato. Già si è sentito un rilassamento dei toni da parte dell'Europa, e probabilmente questo si rifletterà anche negli scambi commerciali, nel dialogo commerciale con gli Stati Uniti. La grossa differenza, secondo me, lo farà la Cina, però anche lì è difficile aspettarsi che ci sia un cambiamento di rotta, perché indipendentemente dal colore, no, della Casa Bianca, che essa sia rossa o blu, quindi repubblicana oppure democratica, l'America deve mantenere un certo standing a livello internazionale, quindi non è che può svendere il suo monopolio valutario, il suo monopolio tecnologico solamente per accontentare, ecco, diciamo, Pechino, che chiaramente vuole la sua fetta al sole. Quindi su questo punto sicuramente ci sarà da lavorare. Sulle politiche ambientali sono d'accordo che qui il cambiamento è radicale, perché si tornerà a sedersi intorno al tavolo. Il problema è che non vorrei che la politica ambientale, quindi tutto quello che circola intorno al cambiamento ambientale, fosse una moneta di scambio per raggiungere invece altre tematiche che sono più sottostanti a un processo di compromesso. Allora, abbiamo un appuntamento come sempre a quest'ora del giovedì. Prego Pietro, per favore. È il domandone, accettiamo solo risposte che arrivino tramite il numero verde 800 24 00 24. Il domandone di oggi, che darà il diritto al primo o alla prima che si collegheranno per rispondere di ricevere il nostro volume, la nostra ultima fatica letteraria. Investire è facile anche nei momenti difficili. Il domandone è il seguente, l'abbiamo detto all'inizio: quanto ha raccolto il primo BTP Futura a luglio? Vi voglio aiutare, quanti miliardi ha raccolto? Dai, è facile, 800 24 00 24. Vai col traffico. Due di denari. Se vi siete distratti, riepiloghiamo, ricordiamo il domandone di oggi. Come sempre, accettiamo risposte soltanto se comunicate attraverso il numero verde 800 24 0024. Il domandone è: quanto ha raccolto il primo BTP Futura a luglio? Quanti miliardi ha raccolto? E adesso torniamo da Alessandro Tentori, capo degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Manager. Debora, prego, a te. Grazie. No, volevo ritornare un po' su quello che è successo in questi giorni, cioè prendere a pretesto quello che è successo in questi giorni per guardare un po' in avanti, sempre appunto riconfermando quello che è il nostro convincimento, cioè di dare delle indicazioni ai nostri ascoltatori, a patto che chiaramente non insistano su investimenti di brevissimo termine, ma chiaramente pianifichino le loro risorse, perché le dobbiamo custodire gelosamente, farle viaggiare in un'ottica di lungo termine. E allora, Tentori, il mercato è felice della soluzione di Pfizer, l'abbiamo detto, però è molto importante anche tutto il tema delle cure per il Covid. Non è che il vaccino risolverà tutti i problemi, ma se anche tutto poi andasse secondo i pronostici, secondo gli auspici, non è che una volta che il vaccino sarà disponibile avrà subito una penetrazione mondiale adeguata. Quindi diciamo che abbiamo ancora davanti a noi qualche mese di volatilità per i mercati alla luce di queste notizie, quindi un po' di sofferenza da questo punto di vista. Detto questo, ci è sembrato effettivamente un po' troppo euforico il mercato, anche laddove negli ultimi giorni ha ripreso ad acquistare per esempio i titoli delle compagnie aeree, i titoli del settore del viaggio. Naturalmente noi speriamo che questi settori riprendano a marciare come un anno fa, come negli anni passati, ma avremo ancora molte difficoltà per questi comparti. Quindi io mi chiedo, alla luce di queste incertezze e anche delle promesse sul tema del vaccino, a quali settori dobbiamo guardare prossimamente? Quali saranno quelli che effettivamente ci diranno che la ripresa è in vista? Perché appunto abbiamo ancora un po' di confusione davanti a noi da questo punto di vista sul tema settoriale. Diciamo che bisognerà trovare una sintesi tra l'economia pre-Covid e l'economia post-Covid, non solamente perché, come giustamente rimarcava lei, ci auspichiamo tutti che prima o dopo si riprenda a viaggiare, si riprenda ad avere un commercio, un trasporto merci, un commercio stile globalizzazione, però è chiaro che tutto questo andrebbe a cozzare poi con quei target, quegli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 che per fortuna sono nel programma elettorale di Joe Biden. Quindi su questo punto di vista bisogna sicuramente trovare una sintesi, come anche bisogna trovare una sintesi sempre sull'economia pre e post-Covid, nel senso che sì, è possibile che ci sia di nuovo un aumento del trasporto di merci, di persone, che di nuovo si vada a apprezzare per esempio settori come l'immobiliare commerciale, quindi real estate, centri commerciali eccetera, ai livelli di prima, però allo stesso tempo è innegabile che noi traiamo un'informazione importante da questo periodo, cioè che possiamo fare a meno tante volte della presenza fisica, quindi sì, interazione sociale, scambi sociali e tutto, però tante cose possono effettivamente essere fatte anche da casa attraverso il computer, quindi questa sintesi sicuramente sarà il processo di investimento, il grosso processo di investimento dei prossimi anni. Quindi sì, da una parte settori old economy, e poi alla fine sono le banche, trasporti, real estate, poi settori della nuova economia, biotech, software application e quant'altro. Vorrei e anche ritorno. Tutto quello che attiene, sì, no, Mauro, stavo prego, pensando prego. Anche i sistemi di pagamento, riallacciandoci alla notizia da cui siamo partiti, no? Da Alibaba, l'e-commerce, sistemi di pagamento che ci consentono effettivamente di fare molte scelte di consumo da casa, pagando da casa. Quindi immagino che anche il tema del fintech, quindi la tecnologia applicata al comparto finanziario, avrà ulteriore impulso, oltre a tutto quello che abbiamo già visto in questi mesi. Non so cosa ne pensa Tentori. Il fintech è la nuova frontiera, ovviamente. Le aziende fintech hanno un vantaggio rispetto alle banche in termini di costi, in termini di operatività e forse anche in termini di informazione sullo stato effettivo, sullo stato creditizio effettivo dei propri clienti, senza contare che poi questa rivoluzione fintech, chiamiamola rivoluzione perché è in atto sicuramente, ha un vantaggio di cosiddetta inclusività finanziaria, cioè si riesce a spezzettare attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali il taglio medio degli investimenti, quindi favorendo anche gli strati sociali a reddito più basso per poter poi beneficiare, no, degli aumenti in borsa. Questo era un po' il problema legato agli aumenti in borsa degli ultimi 20 anni che, stando da alcuni studiosi, avrebbero favorito un certo livello di diseguaglianza sociale, in particolare negli Stati Uniti. Ecco, con fintech tutto questo potrebbe porre rimedio. Io, Deborah, volevo partire da un titolo, guarda un po' del Sole 24 Ore. Lagarde assicura la BCE sarà il ponte fino al vaccino. Ci piace, siamo soddisfatti, Tentori. Lei cosa dice di come si sta comportando la nostra banca centrale, la Banca Centrale Europea, in questa fase così delicata, difficilissima per tutti i paesi europei, diciamo, tutti colpiti in maggiore o minor misura dalla pandemia? Sì, sì, io sono pienamente d'accordo che l'utilizzo dei bilanci della banca centrale e dell'erogazione del credito in particolare sono fattori molto importanti. Chiaramente la politica monetaria è una politica globale, nel senso che vale per tutta la zona euro, vale per tutto l'utilizzo di tutte le zone che utilizzano una certa valuta. Quindi la politica monetaria incontra delle difficoltà quando va a confrontarsi con le realtà dei singoli paesi. Quindi la stessa politica monetaria che può andare bene per la Germania non necessariamente va bene per l'Italia o per la Spagna. Questo è un tema che, su cui la Banca Centrale probabilmente sta già lavorando nel seno della cosiddetta policy review, quindi come sarà poi la strategia monetaria dei prossimi anni. Il punto vero importante, l'innovazione importante che si è vista negli ultimi 6 mesi invece è questo dialogo più stretto, questa cooperazione più stretta tra politica monetaria, politica fiscale, politica macroprudenziale, perché questo fa sì che si possa veramente lavorare sulle singole necessità dei vari paesi senza creare degli squilibri a livello di politica monetaria globale. Questo è molto importante. Allora Deborah, abbiamo questo ultimo minuto, io lo vorrei utilizzare per il nostro domandone. Ricordo che il domandone, se date la risposta esatta, prego Pietro, andiamo pure con lo stacchetto, grazie. Allora, uno stacchetto che mi lusinga, per ricordare che il vincitore, che ci darà la risposta esatta, vincitore o vincitrice che sia, riceverà il nostro ultimo volume, La fatica letteraria ultima di Deborah e mia. Investire è facile anche nei momenti difficili. Abbiamo chiesto quanti miliardi ha raccolto il primo BTP Futura a luglio. Si è prenotato Giuseppe dalla provincia di Bergamo. Giuseppe, quanto ha raccolto? 6,3 miliardi. Caspita, molto bene, è stato precisissimo e allora sarà un piacere, lasci pure i suoi recapiti al centralino, riceverà il nostro volume compatibilmente anche con le difficoltà delle consegne di questo periodo, ma l'ottimo Marco Lombardo è già pronto. Cara Debora, domani di che parliamo? Mi sembra che tu abbia un appuntamento dal gommista, no? Esatto, e quindi ovviamente un po' in conflitto di interesse abbiamo ben pensato di portare i nostri problemi anche a Radio 24, perché sai, nella trasmissione Due di Denari ci sono due ragazzi simpatici che hanno un sacco di ospiti di valore mondiale a cui fare un sacco di domande quando dobbiamo trovare una risposta anche ai nostri problemi. Ci vado o non ci vado domattina? Potrò essere multata secondo te se mi pizzicano? Aspetta, prenotiamo i nostri ospiti di valore mondiale e poi te lo faccio sapere. A domani! A domani!